Fires, un programma di blues tradizionale contemporaneo ideato e condotto per voi in studio da Bruno Pollacci. Buonasera a tutte le mie ascoltatrici e i miei ascoltatori, un grande abbraccio da Bruno Pollacci. Siete all'ascolto di Blues Fires numero 73. Una puntata con tantissime novità discografiche, fresche fresche di quest'anno, ma anche con qualcosa che va oltre. Interessante come sempre la diversità dei linguaggi pur all'interno del blues. E iniziamo subito con una new entry per i nostri programmi, si tratta della Mario Steely Band, che nel 2015, quindi proprio quest'anno, fresco fresco, ha registrato questo nuovo progetto discografico intitolato Come Together, e ho selezionato per voi da quest'album uno dei pezzi che mi ha impressionato maggiormente. Si tratta di Believe ed è una composizione originale del gruppo Marius Tilly Band. Passiamo subito all'ascolto. Let's go. questo era il primo pezzo della serata, intitolato Believe, una composizione originale della Marius Tilly Band, che proprio quest'anno ha realizzato questo nuovo CD intitolato Come Together, un CD nel quale viene fuori quest'anima un po' trasversale del gruppo, genericamente blues rock con delle venature pop, sicuramente un gruppo alla ricerca di una propria strada al blues, e un gruppo che è molto ben assortito sia sul piano strumentale, molto valido, ma anche con questo vocalist che ha delle belle potenzialità, delle belle estensioni, e quindi sicuramente un gruppo di cui potremo sentire parlare. Dopo Marius Tilly Band è il momento di Mick Hucknall, un altro artista che da noi è molto poco conosciuto, che ha realizzato un CD intitolato American Soul, dal quale noi ci potremo ascoltare Lanaly Avenue. Mick Hucknall, buon ascolto. Now my room has got two windows, but the sunshine never comes through. You know it's always dark and dreary since I broke off, baby, with you. I live on a lonely avenue. My little girl wouldn't say I do. Well, I feel so sad and blue, and it's all because of you. I could cry, could cry, could cry. I could die, could die, could die, 'cause I live on a lonely, oh yes sir. Now you know my covers, they feel like lead, and my pillow, it feels like stone. Well, I've tossed and turned so every night, I'm not used to being alone. I live on a lonely avenue. My little girl wouldn't say I do. Well, I feel so sad and blue, and it's all because of you. I could cry, could cry, could cry. I could die, could die, could die, 'cause I live on a lonely, oh yes sir. So sad and lonesome since you left this town. You know if I could beg or borrow the money, child, I would be a highway bound. I live on a lonely avenue. My little girl wouldn't say I do. Well, I feel so sad and blue, and it's all because of you. I could die. Bene, questa era la voce di Mick Hucknall, che ha realizzato questo CD intitolato American Soul, dal quale noi ci siamo ascoltati Lanaly Avenue, un artista sicuramente interessante, particolare, che fonde, così come nel nome del CD, il soul al blues, e lo fa con proprietà di linguaggio, con capacità espressiva e con un bel arrangiamento che mantiene un equilibrio tra la tipica forza espressiva del blues e la morbidezza comunicativa del soul. Mick Hucknall, dal CD American Soul, il pezzo era Lanaly Avenue. Adesso andiamo avanti con invece un gruppo fortemente blues, blues rock, che si chiama Mulehead, e che proprio quest'anno ha realizzato un CD intitolato Forever Out of Tune. Da questo CD io ho selezionato per voi questo pezzo intitolato No Room for Fiction. Mulehead, buon ascolto. Stories to end it with, but I'm right out of your chest. Bene, questa era la band dei Mulehead, una band veramente molto ben assortita, con ottimi musicisti, con un bel sound, una bella complicità di intenti, con sicuramente una notevole forza espressiva, vitalità, insomma c'è una gioia musicale in questo pezzo in particolare, che si intitola No Room for Fiction, tratto dal loro ultimo CD pubblicato proprio quest'anno, intitolato Forever Out of Tune, Mulehead. Oh, e adesso andiamo ad ascoltarci Kentucky Headhunters and Johnny Johnson. E si tratta di una pubblicazione della Alligator Records, una tra le più importanti case discografiche blues mondiali, che spesso fa degli omaggi ad artisti scomparsi del passato, che hanno avuto tra l'altro un passato con la Alligator, e altre volte invece comunque mettono in evidenza artisti ancora presenti nell'ambiente musicale, ancora vivi, ma con già una carriera alle spalle, per sottolineare il lavoro svolto fino a questo momento. Kentucky Headhunters e Johnny Johnson sono i due protagonisti di questa pubblicazione discografica della Alligator, intitolata Meet Me in Bluesland, e noi ci ascolteremo tra l'altro proprio il pezzo che dà il titolo a questa pubblicazione discografica, Meet Me in Bluesland. Buon ascolto con Kentucky Headhunters and Johnny Johnson. got some peace. Can find some peace. I just take my old guitar and stroll on down the lonely street. Right now, though, we're gonna play the piano. Come on, Johnny. Questa era la musica di questo bel gruppo Kentucky Headhunters, una delle band più interessanti di blues degli Stati Uniti, insieme al mitico Johnny Johnson, musicista di 91 anni che in questo caso collabora alla realizzazione di questo bel CD intitolato Meet Me in Bluesland, curato dalla Alligator Records. Noi ci siamo ascoltati proprio il pezzo che dà il titolo all'album, Meet Me in Bluesland, Kentucky Headhunters and Johnny Johnson. Bene, dopo questa felice accoppiata, un'altra felice accoppiata, quella di Nick Moss and the Flip Tops, dal CD Got a New Plane, pubblicato nel 2001, dal quale noi ci potremo ascoltare Let's Try This Plane Again. Nick Moss and the Flip Tops. Tell me things just to make me feel good. Yeah, you know I've had people tell me things just to make me feel bad. When you tell me that you love me, baby, it's the best feeling I've ever had. Well, I thought I had my life straight, and I was working with a simple plan. Uh-huh. Yes, I thought I had my life straight, and I was working with a simple plan. Baby, I had to try a new plan again. Bene, questa era la musica di Nick Moss and the Flip Tops. Got a New Plane è il titolo di questo CD dal quale ci siamo ascoltati. Let's Try This Plane Again. Un chitarrista, Nick Moss, con questa sonorità piuttosto tagliente, piuttosto come dire metallica nella sua chitarra. Un chitarrista in pieno rigore della grande tradizione del blues elettrico, che ha trovato insieme a questi Flip Tops un equilibrio formale musicale per proporre un CD veramente godibile dal primo all'ultimo pezzo, con energia, con forza, con grinta, ma nello stesso tempo anche negli slow con una bellissima intensità. Nick Moss and the Flip Tops dal CD Got a New Plane. Let's Try This Plane Again. E adesso un'altra delle novità di questa giornata. Abbiamo detto è una puntata ricchissima di novità, di CD pubblicati nel 2015, nella nostra metà di quest'anno, e si tratta degli Odd Socks. Gli Odd Socks hanno realizzato un CD molto coinvolgente, perché si tratta di un live, e i live, si sa, magari non sono perfettini sul piano delle registrazioni, delle sonorità, perché chiaramente sono registrati a volte con delle, quelle che si chiamano le sbavature, con tutta una serie di imprevisti, anche di rumori di sottofondo, eccetera, ma sicuramente i live a volte mantengono quell'energia, quella spinta, quella carica che le registrazioni in sala di incisione, dove tutto poi è curato con estrema cura, si perdono un po'. Sembrano appunto le differenze tipiche tra le cose fatte con la testa e fatte con il cuore. A volte anche in sala di registrazione si fa un bel equilibrio tra cuore e mente, ma sicuramente i live sono vissuti sempre sull'onda dell'energia che si scambia tra artisti e tra artisti e pubblico, e a volte nelle registrazioni questa particolare magica energia rimane impressa. Ascoltiamoci quindi questi Odd Socks dal CD Live in Willans, pubblicato appunto, come dicevo prima, nel 2015, e ci ascolteremo O Wichita. Buon ascolto quindi con gli Odd Socks. Thank you. ci siamo ascoltati anche i bravissimi Old Sox, che si presentano per la prima volta in Blues Fires con questo nuovo CD pubblicato proprio quest'anno, intitolato Live in Wheelands, un CD, come dicevo prima, che ha in sé una gran bella energia, un gruppo forte, sicuramente grande il leader del gruppo, che è un ottimo vocalist, ma è anche chitarrista, ma tutto il gruppo, veramente una bella sonorità, una bella complicità, forte nelle sue espressività musicali, riesce sempre in ogni pezzo del CD ad offrire delle prove di altissimo rilievo. Old Sox è il nome del gruppo, Live in Wheelands il nome del CD, o Wichita il titolo del pezzo che ci siamo ascoltati, un loro pezzo originale. E adesso un gruppo un pochettino più conosciuto, magari da noi meno, ma negli Stati Uniti un pochino di più, si chiamano gli Old Grey Mule, e sempre quest'anno hanno pubblicato un CD intitolato Have Mercy, dal quale noi ci potevamo ascoltare Stop Playing. Buon ascolto quindi con gli Old Grey Mule. E questa era la musica del gruppo che risponde al nome di Old Grey Mule, Have Mercy, il titolo di questo bel CD pubblicato proprio quest'anno nel 2015, dal quale noi ci siamo ascoltati Stop Playing, un gruppo veramente molto valido, sempre con grande intensità, ogni pezzo viene vissuto con grande partecipazione, con grande concentrazione, il risultato è sempre veramente molto buono in ogni pezzo di questo bel CD che, ricordo, si chiama Have Mercy, pubblicato proprio quest'anno. Gli Old Grey Mule sono un gruppo con grande esperienza che riesce in ogni pubblicazione discografica a confermare la sua validità artistica. Adesso un gruppo che si presenta per la prima volta nei miei programmi, che si chiama Los Toros e che proprio quest'anno hanno realizzato un CD intitolato Power Trio. Noi da questo CD ci ascolteremo Free Balls. Buon ascolto quindi con i Los Toros. Thank you. Bene, questo era veramente un bel pezzo tirato con grande sentimento. Gli artisti si chiamano Los Toros, hanno realizzato un bel CD proprio quest'anno intitolato Power Trio, dal quale noi ci siamo ascoltati questa loro composizione originale intitolata Free Balls. Un gruppo veramente di grande rilievo, con ottimi performer e un bel senso globale, un bel feeling di gruppo. E prima di chiudere ricordo che sono alla ricerca di gruppi blues italiani, e quindi tutti i gruppi blues italiani che sono interessati a poter essere promossi nel mio programma possono contattarmi. Esiste su Facebook la pagina e il gruppo dei miei programmi con Anima Jazz, Blues Fires e il Doobidoo. Esistono due miei profili Facebook personali e poi esiste il sito dei miei programmi, che è il sito di Anima Jazz, animajazz.eu, dove è possibile trovare la mail e potermi contattare per poter prendere accordi, perché sono molto interessato a promuovere gruppi blues italiani. Detto questo, passo a salutarvi e a darvi l'appuntamento a martedì prossimo. Ciao ciao a tutti da Bruno Pollacci e da Blues Fires.